Vendo tutto di Matteo Caccia. In diretta da Riva del Garda, da una piazza delle erbe gremita di pubblico. Bravi, ci siamo capiti subito. E di gadget di Radio 24. Io non mi fermo e continuo Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Capita, lo so. Succede a tutti e stavolta è successo anche a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova, voi venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una Radio Marelli degli anni 60. La radio. Radio marca Radio Marelli, modello RD225, anno 1960. Funzionamento a valvole, gamma d'onda solo AM, altoparlante AP magnetodinamico. Materiale plastica, colore bianco e azzurro, dimensioni lunghezza 34 cm, altezza 16 cm, profondità 11 cm. Perfetta come soprammobile o per sentire le voci di un'epoca che non c'è più. Valore commerciale sconosciuto, base d'asta Vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Allora, la prima notizia di oggi è che arriva del Garda, non piove. Perlomeno al momento non piove e il tempo probabilmente terrà fino alla fine della puntata, direi. La seconda notizia invece è che vendo questa radio. Questa non è una radio qualunque, è una Radio Marelli del 66, credo, per l'esattezza. Prima leggevamo insieme a Tiziano Bonini e ad Andrea Borgnino, qua c'è scritto usare solamente valvole originale fibre. Prima abbiamo provato ad accenderla, dopo 5 minuti era rovente, quindi l'abbiamo spenta. Però la radio è questa ed è in vendita. Quello che faccio in questo programma, prima ne parlavo con il signore che è venuto in prima fila, mi ha chiesto: ma l'argomento della trasmissione è questo qua, che vendo tutto, la mia ragazza mi ha lasciato. E mi ha detto: ma con tutte le notizie che ci sono in giro, proprio di sta roba dovevamo parlare. Giustamente, ha detto anche c'è un sacco di disinformazione in giro, però noi al momento non facciamo informazione. Quello che faccio io è vendere oggetti, ne vendo uno ogni giorno, racconto la sua storia e poi li metto in vendita per liberarmi di tutto. Avrei potuto raccontarvi normalmente come faccio in onda tutti i giorni la storia di questo oggetto, a cui io sono particolarmente legato, ovviamente, perché è appartiene in realtà ancora a mia nonna, che è, a dispetto di quanto sembri, è ancora viva, anche se ogni tanto sembra che ne parlo come se fosse morta, invece è viva, sta bene e probabilmente mi sta ascoltando. Quindi ho pensato che questa radio, più che raccontarvi io esattamente da dove arriva, cosa ha fatto e come è arrivata a casa di mia nonna, ho pensato che il motivo migliore fosse farlo raccontare direttamente dalla sua voce. È la prima radio che abbiamo comprato ai tempi e il nonno ha voluto comprarla perché ci doveva essere dei mondiali in giro, che non so dire se era in Inghilterra o dove erano, che ha dovuto, che voleva sentirle, perché allora non c'era la televisione ancora. Ci doveva essere qualche mondiale in giro. Il mondiale in giro era quello dell'Inghilterra del 1966, che poi è stato l'ultimo mondiale che ha vinto l'Inghilterra, nella fattispecie il primo e unico mondiale. Era il 1966. Sapete che succede proprio? C'è delle ricerche che dicono che le aziende che producono radio, ma soprattutto televisori, aumentano vertiginosamente i propri fatturati durante i mondiali, no? Perché i mondiali sono sempre dei momenti di massima vendita. Addirittura c'è una casa che produce una televisione che, se la compri e gufi contro una scommetti su quale squadra uscirà prima, te la regalano. Non so se qualcuno di voi l'ha fatto, però esiste. Questa radio è arrivata proprio da lì, perché mio nonno voleva ascoltare delle partite e mia nonna dice che la televisione non c'era. In realtà c'era già la televisione, perché era il 66, però loro banalmente non ce l'avevano, e quindi mio nonno si è comprato questa radio qua. Oggi però vorrei parlando di questa radio, proprio dell'aspetto evocativo che hanno soprattutto le partite dei mondiali. C'è chi dice che i mondiali sono il calcio delle donne, no? Nel senso che chi si interessa di calcio guarda il campionato o la Champions League, invece le donne si interessano dei mondiali. Però un aspetto importante dei mondiali è che diventano una sorta di punto fermo nella nostra memoria. Cioè, ci ricordiamo che durante i mondiali del 1998 eravamo in un punto piuttosto che in un altro, e ogni tanto capita che ci siano delle partite che ci rimangono nel cuore e nella memoria proprio perché durante quelle partite noi facevamo altro, e quindi ci ricordiamo non per il risultato di quella partita lì, ma perché noi durante quella partita lì stavamo facendo delle altre cose e ci è successo un'altra cosa. Per chi è a casa, 800240024, per chi è qua invece ne parliamo dopo. Se vi ricordate una partita, io ce l'ho e ve la racconto più tardi, una partita che vi è rimasta dentro non per quello che è successo durante la partita, ma quello che è successo fuori, davanti alla televisione, o in questo caso era davanti alla radio. 800240024, abbiamo anche gli sms 349-238-6666. Chiedo scusa al pubblico presente, dovrò mostrarvi le spalle per guardare gli sms, ma lo farò il meno possibile. 800240024. Però andiamo avanti a parlare di questa radio e sentiamo che cosa dice mia nonna, perché a un certo punto volevo capire esattamente come era entrata in casa loro questa radio, e quindi lei me l'ha raccontato. Quando è venuto a casa, adesso ti faccio un regalo a me, proprio tu, che lui diceva: guarda, ti do il portafoglio, compro quello che vuole. E io dicevo: no, io voglio un regalo da te, non che vado a comprarlo io. E allora tira fuori dalla borsa questa radio. Ho detto: la radio. La sera si aspettava, si cenava, si lavava quei due piatti e poi là tutti a sentire, perché ce l'avevano tutti. Allora loro trasmettevano per radio. A questo punto, visto che ce l'avevano tutti e allora loro trasmettevano per radio, io ho chiesto a mia nonna che tipo di radio ascoltasse, visto che attraverso questa radio ci è passata un po' della storia della radio italiana. E allora le ho chiesto: ma tu ascoltavi quelle trasmissioni, quelle tipiche dell'epoca, no? Quelle di cui si parla sempre quando si parla della radio dell'epoca? Altro gradimento no. Ma sì e no, perché non mi piaceva tanto quell'altro che era assieme, Buoncompagni, era Renzo Arbore e Buoncompagni. Aveva un modo di fare che non mi piaceva, un po' nanetto, bruttarello, mi piaceva di meno. Il programma più interessante del secolo, un cast mai visto prima d'ora, nel quale vedremo sfilare Renzo Arbore. Insomma, non le piaceva particolare, le piaceva più a Renzo Arbore, non ho capito perché, più che di Buoncompagni. Non ascoltava solo quello però, ovviamente, ascoltava anche altri programmi mia nonna. Chiamate Roma 3131, io le sentivo qualche volta, perché oltre loro lì in radio, sul posto magari a Milano, da dove trasmettevano, trasmettevano anche qualcuno da Roma, che non so dirti chi era quelli là. Era una trasmissione un po' abbinata. Era una trasmissione un po' abbinata. 31, chiamate Roma 3131. Io non ho capito veramente che cosa volesse dire abbinata. Cioè, glielo chiedo, in che senso era abbinata? Cioè, era abbinata a qualcos'altro? E lei mi ha detto no, era abbinata al suo interno. Però poi non mi sembrava il caso di andare avanti. E comunque chiudo salutando voi e salutando soprattutto mia nonna, che in questo momento sta ascoltando, perché quando mi ha affidato questa radio qualche anno fa, mi ha detto: e comunque ricordati da dove arriva questa radio. Ricordate che quella lì l'ha comprata il nonno per sentire. Era in Inghilterra che c'erano questi giochi di pallone, o che era in Inghilterra. So che magari in ufficio avranno parlato e lui dice: palle di crompera. Quando ero un bambino, all'inizio dell'estate, i miei genitori portavano me e mia sorella in montagna. Ci portavano insieme ai miei nonni appena finita la scuola, più o meno a metà giugno, e noi stavamo lì fino a agosto, quando poi finalmente si partiva per il mare. Nella casa in montagna la televisione non c'era. E quindi mio nonno, insieme a mia nonna, caricava sulla macchina questa radio qua, ed era un po' chiaramente un motivo per ascoltare, per passare il tempo, per ascoltare il giornale radio e passare le serate. Questa radio era sul mobiletto di fianco al termosifone. I primi ricordi di un'estate, cioè i primi ricordi, sapete quando pensate alla prima volta che mi ricordo un'estate in vita mia? Ecco, i miei primi ricordi di un'estate risalgono all'anno dei miei 7 anni. Era l'anno in cui conobbi Vera, una ragazza che si chiamava Vera, ed era l'anno in cui i mondiali si giocavano in Spagna. Ecco il numero 11 che la effettua. È stato Rummenigge a ritornare indietro per recuperare il pallone e effettuare questa rimessa. Ha scambiato il pallone con Breiter, invitata l'azione ancora da Rummenigge. Scatto di Breiter, messo a terra da un intervento di Rossi. L'azione regolare prosegue. Scatta ancora la formazione italiana. Una discesa di Conti che riceve da Scirea. Avanza Conti, sulla sua destra corre brutalmente Bergomi. Vera aveva 13 anni. Vera aveva 13 anni ed era di Genova ed era bionda. Io invece ne avevo 7, ero di Romentino e avevo l'asma. Poi invece c'era Cristiano che di anni ne aveva 15, era romano ed era stronzo. C'erano anche altri ragazzi, però sinceramente al momento le facce e i nomi un pochettino si confondono. Io piacevo a Vera, io le piacevo, questa roba l'avevo capita subito. Avevamo però 6 anni di differenza e 6 anni di differenza erano un'eternità. Eppure lei faceva questa cosa qua. Lei quando mi guardava mi sorrideva. E io avevo 7 anni meno di lei e non sapevo niente dei sorrisi delle donne. E poi c'erano i mondiali e alla fine dei mondiali c'era la finale. Un nostro giuro esattamente Oriari che stava per avanzare, dove ricevuto la palla, punizione battuta, irrompe Gentile sulla destra, parte il tiro, rete! Rete degli azzurri! La radio all'epoca era sul mobile di fianco al termosifone. E una delle cose belle della radio è che se non l'ascolti da solo e sei con altre persone, mentre ascolti quello che succede, puoi guardare in faccia le altre persone e vedi le loro espressioni. Solo che io ovviamente guardavo in continuazione Vera e lei sorrideva e guardava qualcun altro e si guardava in giro. E quando l'Italia segnava, si abbracciava con gli altri. Prosegue Rossi al limite, tocca sulla destra per Scirea che ferma, colpo di tacco indietro per Bergomi, ancora per Scirea, ancora Scirea in possesso della palla, siamo nell'area avversaria, al limite per Cardelli, tiro, rete! Che tra l'altro quando segui una partita alla radio e hai 7 anni e sei nel 1982, se non segui con attenzione non capisci quando la tua squadra la sta segnando, perché il radiocronista, che all'epoca era Enrico Ameri, era appaccato, cioè non era un pazzo come quelli di oggi che la palla quando è dall'area opposta cominciano ad urlare, e quindi ti accorgi solo quando tutti cominciano a urlare, senti l'urlo suo, senti l'urlo di quelli che ti stanno intorno, che si stanno abbracciando, allora capisci che è vero, capisci che la tua squadra ha segnato. Poi all'improvviso ti guardi in giro e Vera non c'è più. E sulla respinta, fuga di Conti sulla destra, discesa di Conti veloce verso l'aria, entra in questo momento in aria, rimette al centro per Altobelli che si libera di avversario, rete! Rete di Altobelli! E se lei non è più lì, e non c'è nemmeno Cristiano, che ha 15 anni, è di Roma ed è uno stronzo, c'è poco da chiedersi. C'è poco da fare, perché lo senti nella pancia, no? Senti un dolore strano alla pancia e hai paura che non passi più. E anche se hai 7 anni e pensi che in fondo avevate 6 anni di differenza con lei, lì capisci, in quel momento lì, capisci che è arrivato il momento di fare una lista delle cose che ti piacciono e che magari non si avvereranno mai. Però una lista è sempre meglio farla, perché prima o poi qualcosa si avvera. Soprattutto sai che quando penserai a quella partita lì, quando penserai a Italia-Germania dell'82, penserai a Vera e soprattutto penserai ai suoi sorrisi sbagliati. Avanza la Germania, l'Italia, ricordiamo, è campione del mondo, conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabéu e l'ha conquistato in effetti, perché l'arbitro ha soltanto la palla ai giocatori azzurri. Eppure, come è valso per tutto quest'anno, nonostante questa storia, nonostante il suo valore inestimabile, questa radio è in vendita. Il suo valore non lo so, la base d'asta sono i soliti 99 centesimi. Se vi ricordate una partita in particolare, per quello che vi è successo e non per la partita, 800240024. We tried to find some words to aid in the decay, but none of them were home inside the catacomb. A million ancient beasts began to sting our knees while we were out. Siamo ancora in diretta da Riva del Garda, facciamo sentire che siamo tutti qua e non siamo andati via. Però ho la sensazione che stia per cominciare a piovere, giusto? C'è qualcuno tra il pubblico? Innanzitutto, scusa Laura, prima di partire c'è Laura Faggin col microfono. Un applauso a Laura Faggin che è stata con noi e ci sopporta ancora. Qualche tempo fa ci è arrivata una mail di una ragazza di Trento che diceva che il suo professore dell'università, il suo professore di spagnolo, era impazzito per questo programma e gli aveva fatto scrivere delle storie sui loro oggetti giocando avendo tutto in spagnolo. Quella ragazza è qui con noi, ciao, come stai Elena? No, Elena non la sentiamo, ci sei? Sì, tutto bene, grazie. Come è andato l'esame? 26, oh, bene. 26, sì. Grazie a Radio 24. Cosa, che racconti avevi fatto? Allora, avevo venduto una crema, un anello, una macchina, macchina, un libro. No, ma spiegami una cosa però, cioè il tuo professore è una persona seria, immagino. Molto serissimo, serissimo. Che vi ha fatto scrivere l'esame in spagnolo? In spagnolo, esattamente come li vendi tu, la descrizione, il prezzo, la base d'asta, tutto quanto. E non c'è il professore di spagnolo qui? Non, ma non, non l'ha invitato? Sì, sì, l'ho invitato, gli ho scritto un'email. Ah vabbè, ok, gli ha scritto un'email, quindi chiaramente non è venuto. No. Grazie Elena. Se c'è invece qualcuno tra di voi che si ricorda una partita in particolare, perché è successo qualcosa a lui durante quella partita, bene, altrimenti ci sono un sacco di telefonate che aspettano. Lui aveva qualcosa da raccontare prima. Ho visto che... No, dicevo niente di particolare, però possiamo giocarci su questa cosa. No, guarda, mi hai fatto ricordare innanzitutto l'82, siamo coetanei, quindi io non capivo esattamente la vittoria, ma ricordo la gioia di mio padre che la trasmise in tutta la famiglia. E quindi da lì ci fu un passaggio praticamente. Avevi qualcosa da dire? E tra l'altro, sì, dai, di solito accade così. Che di solito tutti dell'82 si ricordano la telecronaca di Martellini, no? Campione del mondo. Questo invece era Enrico Ameri che la trasmetteva per radio. Senti, allora sentiamo, visto che c'è una bella storia. David da Pordenone. Pronto, David? Ciao, David. Ciao. Senti, tu scrivi che hai, dici che hai, durante una partita di quale mondiale? Era del 2002. Era Francia-Senegal, la prima partita di quel mondiale. C'era l'inaugurazione. Dov'è? Cos'era? Sì, Corea? No. Sì, il Giappone. Dov'era? Corea. Giappone. Tu cosa stai facendo durante quella partita? Ho fatto l'amore per la prima volta. Ma quanti anni avevi? Ne avevo 19. Quanto è finita la partita? Aveva vinto il Senegal, adesso però non mi ricordo il risultato, avevo altro per la testa. E lei come si chiamava? Cinzia. Cinzia, mi pare di capire che non è più roba. Non è più. Purtroppo non è più. Però adesso, Adesso mi guardo i mondiali. Ciao David, grazie mille. Ciao. Andiamo a Grosseto da Cristiana. Pronto Cristiana? Pronto, sono un po' emozionata. A chi lo dici, guarda. Di quale partita stiamo parlando? Ma io premetto che di calcio proprio non ci capisco niente, nemmeno che mi piaccia poi tantissimo, però mi ricordo bene anch'io quella partita di cui parlavate, questa dell'82, che è quella un po' più famosa. Sì. E per una ragione particolare, io mi ricordo che avevo 16 anni, però ero una bimbotta, ero una bimbona. E quanti ne hai adesso, Cristiana? Quanti anni hai adesso? Sono giovanissima. Perfetto, ok. Quindi cosa stavi facendo? Qui mi fermo. Va bene, cosa stavi facendo, Cristiana? Brava, cosa stavi facendo, Cristiana? E dicevo, niente, appunto, di quella partita, mi ricordo bene che io cucii la bandiera. Perché ora per quanto si trovano queste bandiere già cucite, no? Con tutti questi tre colori, però io mi ricordo bene che allora si vede che non c'erano probabilmente, e mi ricordo che io il pomeriggio cucii la bandiera perché appunto in occasione deve stare insieme alla mia mamma. Va bene Cristiana, ti sento emozionatissima, ti faccio tornare dai tuoi quattro bambini allora. Ti saluto tanto Matteo. Ciao, grazie, buona giornata. Parlare con anche te. A me, non sapessi. Ciao, grazie. Andiamo a Comoda Paolo. Pronto Paolo? Sì Matteo, ciao. Tanti complimenti per la trasmissione, un po' di emozione ce l'ho anch'io. Benissimo, tutti quanti. L'emozione mi viene, io ho 37 anni, sì. E l'emozione mi viene pensando a Italia 90, del 90 appunto. Italia-Argentina, se non sbaglio. E mi trovai con una ragazza che era, io ero al mare, ero a Jesolo Lido, e c'erano tutti questi barchi. Cioè, perché da uno da Como va a Jesolo Lido? Bravo, perché mia mamma è di Jesolo Lido, quindi era una certa... giusto se hai dei parenti va a Jesolo Lido. Bravissimo, perché sennò onestamente ci sarebbe di meglio, anche se vabbè, per non parlare male del posto. E quindi ero certo obbligato di quegli anni andare a fare le vacanze. Ok, eri con una ragazza dove esattamente? In un bar, vicino, mi ricordo anche il bar onestamente, anche perché era vicino alla casa dove abitava mia nonna, dove io appunto passavo le vacanze. Dobbiamo chiudere Paolo, cos'è successo in quel bar? Ma niente, io che tutte e due era la prima uscita insieme, e tutte e due, finita la partita, siamo andati in spiaggia e forse ci siamo messi a ridere dicendo che abbiamo sprecato 90 minuti a guardare la partita. Io questo me lo ricorderò sempre, perché l'ho detto, abbiamo sprecato 90 minuti prima a guardare la partita, potevamo anticipare i tempi, tutto qua. Grazie Paolo, grazie mille, buona giornata. Io vi saluto, voi ovviamente ci siete anche domani sera, vero? Quanti? Chi c'è dica sì. Ecco, un po' di più. Domani sera alle 22... compatibilmente con le condizioni meteorologiche, da qua, molto più probabilmente dalla Rocca, giusto? Per la serata finale di Vendo Anch'io ci saranno i 5 finalisti, già ne vedo qualcuno qua nel pubblico, c'è da comprare, ragazzi, quindi pronti col portafoglio. Quindi io vi saluto, vi do appuntamento a chi è in onda, a chi è all'ascolto, lunedì alle 16, a chi è qui a Riva del Garda ai Radio Incontro, a domani sera alle 22. Ciao, grazie! Love, love, love, where